capo. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un buongiorno a tutti da Gigi Donelli, benvenuti a questo nostro appuntamento un po' particolare, perché entriamo dunque nelle fasi conclusive di una campagna elettorale. Domani dunque le urne aperte, insomma, implicazione naturalmente anche per la comunicazione politica, ma tant'è, siamo arrivati a questo punto, al termine di una settimana che si è fatta via via più calda sul fronte del confronto politico. Allora io vorrei cominciare proprio da un contributo che è stato raccolto da Alessandro Milan durante la trasmissione del mattino di Buon'ora. Il suo ospite è Alessandro Amadori, psicologo, scrittore, esperto di dinamiche elettorali, che parla proprio di come si sia evoluto e reso via via più caldo il clima elettorale. Sentiamolo. La questione è: tutti e due alzano i toni, oppure è, come titola Riformista oggi, l'estremista è Berlusconi, cioè è lui che alza, è il centrodestra che alza i toni e il centrosinistra si deve un po' difendere, quindi alzare l'asticella di conseguenza, oppure tutti alzano i toni, Amadori? La mia impressione da osservatore esterno, osservatore tecnico, diciamo, della comunicazione, della battaglia politica, è che da molti anni in Italia da ambo le parti si stiano alzando i toni, quindi lo scadimento comunicativo è generalizzato. In quest'ultima campagna elettorale per le prossime amministrative ho visto un po' più di disinvoltura comunicativa e di aggressività comunicativa da parte del centrodestra. Ma ripeto, il problema è generale, quindi sarebbe sbagliato accusare una sola parte. Io non condivido, pur con la simpatia e con il rispetto che ho per il direttore Sallusti, non condivido la sua idea che la comunicazione politico-elettorale in campagna elettorale sia sempre e necessariamente una guerra di basso profilo, perché è vero che la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, parafrasando von Clausewitz, però anche la guerra si può fare con mezzi e con strategie soprattutto differenti. Quello che delude di questa campagna elettorale, e direi soprattutto di alcuni esponenti del centrodestra, nonostante le potenzialità che ha ancora in questo paese il centrodestra, quello che delude è che non sembra esserci una strategia, c'è solo l'attacco personale, non c'è una proposta di contenuti, di progettualità, non c'è una visione, non c'è nemmeno da parte del centrosinistra, ma in particolare mi sorprende che alcune amministrazioni uscenti, invece di insistere sulla dimensione progettuale, e avrebbero molto da dire, si limitino all'uso del coltello, del corpo a corpo. Ecco, la guerra può essere grande movimento di carri armati, dove c'è una strategia, una visione, oppure può essere lotta corpo a corpo, col coltello e con l'accetta. Ecco, sì. Questo non lo condivido. Però si dice sugli argomenti, cioè non so, su Milano, su Napoli, su Bologna, su Torino, le grandi città in cui si va al voto, non ha visto dei grandi dibattiti, che ne so, a Milano, sull'Expo, le moschee, traffico, ma su questioni personali anche. Assolutamente, questo che delude della campagna a cui stiamo assistendo, la totale assenza di dibattito sui progetti di cui le città italiane hanno disperato bisogno. In particolare ne ha una metropoli come Milano, che sa che o aggancia l'Europa con le grandi infrastrutture e con la modernizzazione generale del sistema urbano, o rischia di decadere, rischia di perdere competitività. Insomma, la posta in gioco è alta in queste amministrative. Dobbiamo decidere che futuro dare ad alcune delle nostre principali città. Possibile che ci si limiti all'accusa personale dall'una e dall'altra parte? E questo era dunque Alessandro Amadori, psicologo, scrittore e ospite di Alessandro Milan. Per quanto riguarda il voto, vi ricordo l'appuntamento con Radio 24 lunedì a partire dalle 15, tutti gli aggiornamenti, i risultati, insomma, le amministrative raccontate in diretta a Radio 24. Punto e a capo. Ancora buongiorno da Gigi Donelli, bentornati a questo appuntamento con la settimana raccontata alla radio. Ripartiamo dalla Libia, anzi da un comunicato arrivato ieri sera da Bruxelles, partito dalla sede della NATO, l'Alleanza Atlantica, che è appunto base nella capitale belga e dell'Unione. Il comunicato è questo, in sostanza: tutti gli alleati sono determinati a portare avanti la missione fino al pieno raggiungimento dei tre obiettivi indicati. Sono lo stop a tutte le violenze contro i civili, il ritiro delle forze del regime, il libero ingresso degli aiuti umanitari. Questa dunque la posizione in una crisi, in una guerra che in questi giorni ha segnato alcuni passi significativi. Dopo combattimenti molto intensi, infatti, gli insorti hanno conquistato l'aeroporto di Misurata, la città strategica a est di Tripoli, assediata da oltre due mesi dalle forze governative. Cristina Carpinelli ha intervistato un giornalista occidentale, spagnolo, presente. Si tratta di Alberto Arce, che racconta la sua esperienza nella città assediata. Sì, durante le ultime 24 ore, los rebeldes habían desatado. Nelle ultime 24 ore, ci racconta Arce, i ribelli hanno messo in atto un'offensiva molto intensa nel sud della città, in quattro punti: l'aeroporto, l'Accademia del Volo, il mercato africano e la prigione di Misurata. Ho capito, continua Arce, che la città tornava in mano ai ribelli perché a un certo punto gli spari di battaglia si sono trasformati in spari di festeggiamento. Allora sono corso verso l'aeroporto e sono entrato con i ribelli. Ho potuto vedere i generali abbandonare la città e lasciare soli i militari che hanno provato a nascondersi nelle case e poi si sono arresi. Ora posso confermarvi che il 100% della città di Misurata è libero. Arce ci racconta anche che i ribelli sono persone normali, volontari, assolutamente disorganizzati e scoordinati, che fanno quello che riescono per liberare la città. Poi gli chiediamo allora di raccontarci come vive chi è rimasto a Misurata. Lo stanno passando molto male, a fin de cuentas, male, risponde il giornalista spagnolo. Male, per strada vediamo solo combattenti. Donne e bambini sono chiusi in casa da quasi due mesi e poi manca tutto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dalla Libia all'Egitto. Ieri, infatti, migliaia di egiziani hanno manifestato in piazza Tahrir, nel centro del Cairo. La manifestazione era stata organizzata per esprimersi in favore dell'unità nazionale tra musulmani e cristiani. Allora, sentiamo il racconto che ieri ci ha fatto in diretta l'inviato del Sole 24 Ore in Egitto, Ugo Tramballi. La manifestazione di oggi ufficialmente è stata convocata appunto per l'unità fra cristiani e musulmani dopo gli scontri fra copti e musulmani e la distruzione della moschea la settimana scorsa. Però non si vede molta unità per il momento in piazza, perché i fratelli musulmani stanno facendo il loro comizio in un angolo della piazza, i giovani dei movimenti dei blogger stanno facendo il loro comizio in un'altra e soprattutto i copti sono in un'altra piazza a protestare per i loro diritti. E improvvisamente è entrata a far parte della rivolta egiziana anche la Palestina, perché poi in realtà qui gli slogan sono più sulla Palestina che sulla democrazia e la libertà in Egitto. Molta gente è disorientata, molta gente è venuta qui per manifestare appunto per l'unità della nazione, con tante bandiere, con croci e mezzelune unite, e si sono trovate disorientate ad ascoltare slogan sulla liberazione della Palestina, che sicuramente è un tema molto sentito dagli egiziani, ma in questo momento non quanto la loro libertà, la loro economia che sta funzionando male e ancora la fase di transizione che è ancora molto difficile. Punto e a capo. Scende da 90 a 20 anni il diritto di superficie sulle spiagge. La norma è stata modificata dopo le contestazioni di Bruxelles e i rilievi del Colle. Ecco, sulla modifica, l'ultima apportata al decreto spiagge, sentiamo Federico Oliva, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, al microfono di Valeria De Rosa. Io penso che metta un po' di ordine, un po' di sensatezza nel decreto che ne era completamente privo. Secondo me 20 anni sono ancora un diritto di superficie ancora lungo, come certo non è paragonabile ai 90, e non è proprio quella privatizzazione di un bene pubblico che veniva fuori dalla prima versione del decreto. Noi ci siamo opposti, abbiamo dichiarato la nostra opposizione per questo e per il motivo collegato della mancanza di concorrenza, di progettualità che questa cosa avrebbe portato sulle coste italiane, no? Questo ingessamento per un secolo o quasi di qualsiasi diritto, una sostanziale privatizzazione in cui si abdicava ad un bene che però può essere in realtà foriero di sviluppo, di ricchezza, di miglioramento anche della qualità ambientale. In intorno a questa vicenda c'è stato naturalmente un grande dibattito, un dibattito che si è sviluppato anche in buona parte proprio qui negli studi di Radio 24. Abbiamo ospitato tra gli altri il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, che parla di un mostro giuridico e annuncia per il 18 giugno prossimo una manifestazione di protesta. C'è invece chi, come Riccardo Borgo, presidente del SIBI, il sindacato italiano balneari della FIPE Confcommercio, ha un'idea diversa. Sentiamolo. Borgo, queste sono le accuse. Risponda, visto che lei ha manifestato invece soddisfazione, poi bisognerà vedere poi in concreto come si applicherà questa parte del decreto sviluppo, per queste accuse. Che cosa risponde, Borgo? Sì, io ho l'impressione che io e l'onorevole Bonelli leggiamo documenti diversi. Ecco, perché quando Bonelli dice che l'articolo 3 del decreto sviluppo prevede per gli stabilimenti balneari, per i concessionari, una sorta di sanatoria, ricordo che l'articolo 3 dice esattamente il contrario, che tutte quelle strutture che non sono autorizzate con un atto formale da parte del comune vengono immediatamente acquisite dallo Stato e abbattute. Dallo Stato e demolite a spese di chi le ha realizzate. Perciò tutta un'altra cosa. Sa che però, Borgo, su questo, scusi se le interrompo, c'è un giallo, perché è emerso oggi dai giornali, bisogna spiegarlo all'ascoltatore, questo articolo in realtà è il comma 2 di questo decreto sviluppo e che effettivamente dice come dice lei, cioè tutte le edificazioni esistenti dopo, successivamente alla data entrata in vigore del decreto sviluppo, vanno abbattute e acquisite allo Stato, abbattute e fatte pagare le spese a chi le ha costruite. Però c'è questa parola, le edificazioni esistenti, ovvero realizzate. Questo ovvero, che in italiano vuol dire oppure, o vuol dire anche ossia, interpretato in un modo o nell'altro potrebbe voler dire che qua so che entriamo in questione di lana caprina. Mi pare però che si vada a cercare la malafede di chi scrive. Ascoltatori a loro volta pro e contro, anzi contro e pro, in diretta durante la trasmissione condotta da Deborah Rosciani. Questi signori sono anni che per le concessioni non pagano niente, praticamente cifre irrisorie, quando si sa bene che stagionalmente incassano migliaia e migliaia di euro. Dico, io ne sono testimone diretto e anche altri conoscenti. A fronte di ciò, questa lobby che è collegata alla politica continua sempre nei soliti intenti, a discapito delle categorie più deboli. Ma non sento mai parlare dei rischi che invece ci sarebbero se entro pochi anni le licenze andassero a gara pubblica, ad asta. In quel caso penso che sì, ci sarebbero dei rischi di edificazioni massicce, perché essendo il litorale italiano un bene limitato, è chiaro che se lo potrebbero giudicare dei gruppi economici che hanno possibilità finanziarie enormi. Certo. Punto e a capo. Si svolgeranno mercoledì prossimo a Gant, in Belgio, i funerali del ciclista Wouter Weiland, morto lunedì scorso durante una tappa del Giro d'Italia. Ecco, martedì Gigi Garanzini ci ha raccontato come il Giro d'Italia si sia rimesso in moto, in che modo è stato scelto di onorare il ciclista scomparso e la corsa a cui partecipava. La morte di Weiland ha inevitabilmente trasformato un giorno di festa, come sono tutti quelli del Giro nelle località attraversate, in un giorno di lutto dedicato alla memoria di questo sventurato corridore belga. Giornata che si svolgerà da un punto di vista sportivo, e non solo sportivo, secondo certe modalità che scopriamo adesso attraverso le parole del direttore del Giro d'Italia, Angelo Zomegnan. E siamo tutti d'accordo su un fatto, che nella vita ci si ferma soltanto quando non si sa dove andare. Il Giro sa dove andare e andrà verso Livorno con una tappa atipica, senza cerimoniali, senza musica, tenendo i toni bassi, partendo con il silenzio della fanfara dei bersaglieri, con una tappa in cui ognuna delle 22 squadre tirerà per 10 chilometri ad un ritmo accettabile per non deludere le aspettative e la gente, in modo da arrivare all'ultimo chilometro con la squadra del leader, di David Miller, che lascerà spazio alla Leopard. Luigi Brescia, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini, ascolti, io chiamavo fondamentalmente per esprimere chiaramente il mio dolore per quello che è successo ieri durante la tappa del Giro d'Italia, per spezzare una lancia, se mai servisse, contro, a favore di Stebis Trattato Sport. Lei lo diceva ieri, non ha un grande feeling con questo ciclismo moderno, però io vorrei ricordare a tutti, purtroppo, perché si sentono tante persone che non hanno più un grande feeling con questo ciclismo moderno, ma purtroppo è la rappresentazione, credo, un pochettino della vita, cioè comunque al di là di tutto il doping di cui possano o non possano far uso, in ogni caso quei ragazzi qua si sciroppano delle distanze, delle fatiche che i calciatori e comunque la maggior parte degli sport, se non la totalità degli sport, si sognano col binocolo. Cioè gente che arriva a fine dell'anno con 35-40 mila chilometri in bicicletta, la maggior parte di noi non li fa neanche in macchina. Uh-huh. E quindi la tristezza è per quello, perché spesso si identifica solo il ciclismo con il doping e non invece con la grande fatica come dovrebbe essere, e con lo spirito di sacrificio che è straordinario, che comunque uno sport di questo tipo richiede, nell'andare a letto presto, nel non strapazzarsi, in tutte queste cose, ecco, certo. Solo quello. E poi da esulo un momentino da bresciano, mi dispiace molto per il mio Brescia, ma comunque ecco, faccio i complimenti all'Atalanta. Grazie Luigi, grazie Luigi, grazie. Volevo leggervi questo articolo che vi ho citato su Repubblica di oggi di Gianni Mura. Volevo leggere qualche riga all'inizio e qualche riga alla fine. Comincia così: i poveri sono matti, diceva Zavattini, anche i ciclisti, vorrei aggiungere, non fuori di testa, ma con quel briciolo di pazzia che li porta a scegliere uno sport di estrema fatica, di molti rischi, di guadagni relativamente bassi. Una volta era normale, quasi automatico, la bici serviva a binda per continuare a fare lo stuccatore, a coppi per sottrarsi alla zappa da usare sui costoni argillosi di Castellania, eccetera. Il finale, invece, ho visto Merckx, dopo tantissime altre cose da leggere che vi consiglio davvero, ho visto Merckx e altri 80 corridori dormire nel liceo di Luchon su brandine stese nei corridoi, 6 docce e 6 WC per tutti, prendere o lasciare. Prendere, se non prendi non sei un ciclista, in più l'organizzatore ti sbatte a casa perché non si può rifiutare l'alloggio assegnato. E allora perché oggi uno non sceglie il tennis, il golf, la pallavolo? Per passione, rispondono i ciclisti. Passione ha la stessa radice di patire, e patire è un po' morire. Questo non spiega tutto, ma molte cose sì. Punto e a capo. Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha chiesto alla Danimarca di evitare ogni passo unilaterale in materia di ripristino dei controlli alle frontiere. Lo ha fatto durante una conversazione telefonica ieri mattina con il premier danese Lars Løkke Rasmussen. Tutto questo arriva al termine di una settimana segnata anche dall'incontro di Bruxelles, in cui si è ridiscusso della opportunità di modificare alcuni degli elementi che caratterizzano l'accordo di Schengen, a cui appunto la Danimarca si è presentata annunciando l'intenzione di rafforzare i controlli doganali a nord con la Svezia, a sud con la Germania. Per noi sono state anche le giornate del primo Festival dell'Europa di Firenze, cui ha partecipato anche il capo dello Stato Napolitano con un messaggio che è stato presentato all'inizio dei lavori. Un messaggio in cui il presidente ha ribadito la sua preoccupazione per le difficoltà che l'Europa incontra ad avere una voce comune quando si tratta di affrontare i grandi temi dell'attualità. Io ritengo che, insomma, negli ultimi tempi c'è stato un grave ripiegamento di stati nazionali europei, membri dell'Unione, su se stessi, sui loro problemi, paesi che sono rimasti sempre di più chiusi, diciamo, nel loro benessere, nei loro problemi, anche una caduta non solo di generosità ma di visione, perché significa avere visione, promuovere lo sviluppo in Nord Africa, nel Medio Oriente, in Mediterraneo, in quanto se non si promuove lo sviluppo poi abbiamo dei contraccolpi pesantissimi, poi non si può alzare alti lamenti per l'arrivo di profughi o per l'arrivo di immigrati. Sempre in occasione dell'incontro fiorentino ha parlato anche Lorenzo Binismaghi, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, che ha lanciato un allarme rispetto a quello che ha definito gli incentivi perversi dei mercati in riferimento alla crisi greca. Sentiamolo. Non è nell'interesse di alcun paese uscire dall'euro sarebbe una situazione drammatica. Oggi ho detto sarebbe un suicidio politico, credo. Nessun capo di Stato, di governo riuscirebbe a sopravvivere di fronte alla propria popolazione una decisione di questo tipo. La Grecia deve attuare il programma, che richiede una serie di misure che in questi mesi forse sono state ritardate. Non teniamo più conto delle agenzie di rating, soprattutto nei paesi dove c'è un programma di risanamento col fondo monetario, riteniamo che le informazioni che abbiamo noi sono migliori. Punto e a capo. In Europa nel 2010 sono state trovate 41 nuove designer drugs, sostanze sintetiche che hanno gli stessi effetti delle droghe illegali, ma non sono proibite dalla legge. Secondo i numeri dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, 41 sostanze è il numero record mai registrato in precedenza e 16 di queste sono state segnalate nel solo Regno Unito. Qui a Radio 24, tra gli ospiti della settimana, abbiamo avuto Peter Köhler, il direttore del Centro per la Prevenzione delle Dipendenze e la Promozione della Salute, che probabilmente non avrebbe mai immaginato di finire così sotto i riflettori della stampa per una serie di proposte che avanza per combattere la diffusione delle sostanze stupefacenti. Sentiamolo. Chiedo solo di andare avanti con un pensiero un po' più rivoluzionario, dove diciamo fino adesso il mercato è nelle narcomafie, possiamo togliere questo mercato alle narcomafie, possiamo usare tutte queste energie che abbiamo all'interno della repressione in altra forma? Ecco, questa è la forma possibile. La forma che lei propone, almeno l'ho capito anch'io dai giornali, è perché di fronte ai tossicodipendenti cronicizzati non pensare a una sorta di somministrazione controllata, che non è la liberalizzazione, una somministrazione controllata all'interno di un percorso terapeutico, in modo da sottrarre queste persone dal mercato delle narcomafie, così l'ho capita bene? Guardi, noi siamo terra di confine, per questo noi guardiamo verso sud, per questo sono spesso anche in regioni d'Italia a fare delle conferenze, ma guardiamo anche verso nord. L'Austria. Vediamo verso l'Austria, verso la Svizzera, verso la Germania, anche verso la Danimarca, e vediamo che ci sono alcuni stati che hanno anche con legge concesso ai servizi sanitari di trattare certe persone non solo con i farmaci sostitutivi, ma anche con l'eroina stessa. Ma ok, quindi non solo col metadone, ma anche con somministrazione controllata di eroina. Giusto, e all'interno di contesti sanitari, con certi criteri anche seri, severi di accesso a questi programmi. E vediamo che i programmi hanno un successo, le persone hanno meno criminalizzazioni, hanno delle vite più stabili e sono non più in questi contesti criminali. Questo è un effetto. Beh, interessante. Punto e a capo. Da Bolzano a New York, la stagione delle aste si apre nella grande mela. Mercanti d'arte, collezionisti, giovani artisti, direttori di musei appassionati affollano in questi giorni le grandi case d'aste, i musei, gli spazi dedicati all'arte. È iniziata infatti a New York la grande stagione delle aste, che decide di fatto il valore di mercato di un autore e ci mostra come cambiano i gusti e le mode dei collezionisti. Mario Platero, nel suo appuntamento consueto con America 24, incontra Aroldo Zevi, mercante d'aste italiano che vive a Londra e che naturalmente in questi giorni è a New York per le aste degli impressionisti moderni e contemporanei. Come sempre è un'atmosfera molto frizzante, piena di anticipazione per quello che succederà. È un po' una convention per tutti i mercanti, collezionisti, direttori di musei, tutti quelli che si occupano d'arte moderna e contemporanea. Ecco, ci sono state delle aste anche la settimana scorsa. Per esempio c'è stato di Lawrence Alma Tadema questo quadro che è l'incontro di Antonio e Cleopatra, ma un quadro ottocentesco. Ecco, è stato venduto per 29,2 milioni di dollari, sei volte quella che era la stima più alta che aveva previsto Sotheby's. Perché? È un fenomeno tipico. Il quadro di cui tu parli è un quadro pre-raffaellita, quindi un periodo che è stato, diciamo, meno in voga negli ultimi tempi e viene riscoperto grazie ad un'opera eccezionale. Quindi ci sono dei collezionisti o che non sono stati attivi nel mercato perché non c'era niente di questa importanza, o semplicemente appunto dei collezionisti che ritrovano un periodo che non è stato così quotato per un numero di anni e finalmente grazie a questa grande opera si lanciano in una grande competitività per avere quest'opera così eccezionale. Ecco, un'altra sorpresa è stato Paul Delvaux, questo suo quadro Cariatidi, un quadro del 1946 da Sotheby's, e l'aveva stimato mi pare 5 milioni di dollari, alla fine ha venduto a 9 milioni di dollari. Pare sia stato acquistato da un cliente russo, o sicuramente il nuovo mondo, i nuovi clienti o russi o cinesi. È un artista importante e non è sorprendente che abbia raddoppiato la stima. Ecco, invece sono rimasti invenduti Iris Mauve di Monet e di Edgar Degas, Danseuse au Foyer. Monet e Degas, che in altri tempi avrebbero fatto il pieno, sono rimasti invenduti. Cambia un po' l'umore, cambia un po' il gusto dei collezionisti, sta capitando? Ci sono varie ragioni. Prima di tutto è tipico di un'asta, una vendita all'asta è piena di sorprese, quindi ci possono essere delle opere che tutti si aspettano fare dei prezzi enormi che invece non sono vendute, quindi c'è questa sorpresa appunto delle aste. Nel caso specifico di questi due quadri non erano dei capolavori assoluti per gli artisti, e sì, il gusto cambia, forse per artisti più ovvi, cose più alla moda, e questi due non erano le cose tipiche ricercate dai nuovi collezionisti. Ecco, invece ci sono dei nomi che sembrano essere più alla moda, per esempio sono già andate all'asta opere molto richieste di Wojciechowski, La donna col ventaglio verde, la scultura ritratto di Gauguin. Ecco, quindi cambiano, come dicevi, i gusti. Cosa ci dici di queste opere? Più che i gusti, allora, le due opere che hai menzionato, Wojciechowski è un quadro eccezionale, l'opera di Gauguin è un'opera rarissima, entrambe si sono vendute, e le stime erano altissime, ma quando si tratta di opere così rare va al di là del gusto o della moda. Non dimenticare che in America una grande quantità di opere che vanno in queste grandi aste vengono dalle eredità, qualche grande collezionista che muore e dato il sistema fiscale americano entro l'anno le opere devono essere vendute, cioè l'estate del defunto deve essere chiuso. Quindi molto spesso noti che a questi grandi asti ci sono dei gruppi molto importanti di collezioni, appunto di collezionisti deceduti. Parlo di questo perché in queste aste c'è una gran penuria, quindi voglio dire, purtroppo si vive più a lungo con dei bei quadri, purtroppo per la Christie's o la Sotheby's o così. Quest'anno non è morto nessuno negli ultimi giorni di grande rilievo, per cui abbiamo visto una certa penura di grandi collezionisti. Punto e a capo. Ecco, per partecipare alle aste, almeno quelle d'arte, quelle importanti, ovviamente occorre anche un portafogli ben fornito. Purtroppo le notizie sui salari non sono invece buone. L'Italia resta infatti in fondo alla classifica OCSE, appunto sui salari, su questa delicata categoria. Sale dal 23esimo al 22esimo posto, superando la Grecia. Lo rileva l'organizzazione parigina nel rapporto Tax in Wages. Il salario netto medio di un single senza figli a carico in Italia è stato di $25,155, tutto questo nel 2010. A Focus Economia il commento di Mario Vavassori, ospite di Sebastiano Barisoni. Nella classifica siamo bassi, però è più perché l'Italia, diciamo, non può permettersi, per motivi anche competitivi, i salari tedeschi, parlo di salari lordi e quindi retribuzione lorda, o è perché noi, pur cercando anche di avere dei salari, non dico quelli tedeschi, ma insomma nella media europea, abbiamo un cuneo che ci porta nel basso della classifica? Ma guarda, leggiamo i dati puliti, ripuliti. Un single che paga il 46,9% su 27.800 euro, che la media è la media nostra e la media dell'Ocse, c'è una differenza di pochissimi euro. Un single prende 1150 euro netti al mese, sono poi i ragazzi dei 1000 euro, ma anche i single, c'è una media tra il ragazzo che comincia a lavorare e prende 1000 euro e il signore che vive da solo, o la certo. signora che vive da solo. Quello che ha invece un genitore con due figli a carico, all'estremo opposto, prende 1600 euro al mese netti, quindi paga il 27%, ha un cuneo fiscale del 27%. La situazione media è di due genitori con due figli a carico che arriva a 1350 euro, quindi con un carico del 37%. Il sistema, ad esempio, tedesco ha uno scorrimento molto inferiore. Cos'è lo scorrimento? Uno scorrimento tra il massimo e il minimo, quindi noi abbiamo uno scorrimento che va dal 46 al 27% di tassazione. La Germania ha uno scorrimento molto, molto contenuto, nell'arco di 10 punti. Noi abbiamo uno scorrimento di 20 punti. Quindi il fatto di avere un figlio o non averlo conta molto. Per noi conta molto, mentre invece in Germania conta un po' di meno. Aggiungiamo a questo che in Germania comunque i servizi sono uguali per tutti, quindi ci sono comunque i servizi, con quella 10% di differenza si pagano comunque dei servizi che sono molto più efficienti dei nostri. Perché c'è questa differenza? Detto in due parole, semplicemente noi abbiamo una crescita interna molto più bassa, abbiamo passato forse non ancora completamente la grande crisi e in questo momento abbiamo finito di leccarci le ferite e stiamo cominciando a tranquillizzarci. Non ci sono stati aumenti di stipendio, anzi c'è una piccola flessione, nel 2010 c'è stata una piccola flessione per i dirigenti e per gli operai. Punto e a capo. A dire la verità, potrei anche dire basta, smettere con Moretti sarebbe perfetto. Questo è l'omaggio in fondo dell'attore francese Michel Piccoli, pensate 85 anni, alla conferenza stampa di presentazione a Cannes del film di Moretti Habemus Papam, di cui Piccoli è protagonista interpretando appunto il Papa, un Papa confuso, un Papa travolto dai dubbi e dagli interrogativi, oltre che dalle incertezze. Dal cinema dunque di questa settimana, e di cui continueremo a parlare nel corso di tutta la settimana di Radio 24 e del Festival, a un altro protagonista che è invece Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, definito camminatore instancabile, traghettatore di idee, esploratore del confine instabile tra se stesso, il cinema e la storia. Questa è la motivazione che riconosce a Marco Bellocchio il premio alla carriera alla 68esima Mostra Internazionale di Arte di Venezia. La soddisfazione del regista al microfono di Marta Cagnola. Sono rimasto molto soddisfatto, un grande riconoscimento alla carriera, estremamente incoraggiante, anche perché io sono convinto, spero, insomma, ho voglia di fare altri film, quindi non è un riconoscimento di pensionamento, ecco. L'anno scorso a Venezia con Sorelle Mai, e quindi questo è un altro punto di partenza. Sì, effettivamente c'è una curiosa coincidenza, perché un premio alla carriera in qualche modo è un premio nel tempo, così come Sorelle Mai è un film nel tempo, un tempo di 10 anni, che poi ne occupa molti altri prima, anche questo premio è un premio che occupa 45 anni, perché io proprio nel 65 ho fatto il mio primo film, che fu rifiutato da Venezia e andò poi a Locarno, dove ebbe il premio La Vela d'Argento, ecco. Per cui c'è una relazione tra il film e il premio. Un altro grande protagonista, questa volta è invece del teatro. Paolini, Brooke, Mauri, Lavia, Servillo, Latella, Ronconi, Giordana, Giordano, questi sono i nomi nella prima stagione del Teatro Argentina sotto la direzione artistica di Gabriele Lavia. Lo sentiamo al microfono di Elisabetta Fiorito. Cosa vuol dire prendere la direzione di questo teatro in questo momento di battaglia per, che c'è stata per Italia, in questo momento poi di crisi economica, rilanciare un teatro come il Teatro Argentina? Intanto abbiamo fatto il cartellone in pochissimo tempo, organizzare tutte queste cose, e ci sono altre cose, altre sorprese che riguardano il Teatro India, perché stiamo costruendo un palcoscenico all'aperto al Teatro India. Quindi ci sarà il Globe e ci sarà l'India? A Roma? Ci sarà l'India e ci sarà il Globe. Cioè, come ha fatto a mettere insieme Paolini, Del Bono, Brook, Mauri, Lavia? E Peter Brook. E i Deviate, che vuol dire deviato. In realtà loro vogliono essere la devianza dalla metafisica alla fisica. Quindi insomma una bella sfida. Ma speriamo che vada bene. E dunque la visione è quella di avere un teatro aperto sempre. Ve l'ho detto che stiamo progettando un piccolo evento da mezzanotte e mezza all'una e mezza, alle due di notte. Mi piacerebbe raccogliere i nottambuli, i disperati, i disadattati come me, i vecchi che non dormono, voi, te, lei e pure lei che dice: ma che fai? Vai a dormire? No, mezzanotte e mezza comincia lo spettacolo all'Argentina. Ma come, che sei scema? Mezzanotte? Sì, ma ancora finisce? Alle due e mezza, tre, non lo si sa. E andiamo lì, forse ci fidanziamo anche, va a sapere, perché c'è sempre questa speranza andando a teatro di incontrare l'uomo o la donna della propria vita. Siamo in conclusione, non mi resta che salutarvi, augurarvi un ottimo weekend e ricordarvi tra un momento in diretta l'altra Europa, questa volta dal Salone del Libro di Torino. Noi ci sentiamo la prossima settimana.